Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, oggi vi presento uno dei primissimi titoli della nuova stagione, un libro che da pochissimi giorni in libreria, l'autore è Salvatore Silvano Nigro e il libro si intitola Il portinaio del diavolo, occhiali e altre inquietudini, pubblicato da Bompiani, 158 pagine, 16 euro. L'autore è uno dei più importanti studiosi di letteratura, non soltanto italiana, e infatti questo libro nasce da una serie di lezioni tenute dall'autore stesso all'Indian University negli Stati Uniti. È un libro curioso perché esamina un filone della letteratura che è quello di guardare le cose da prospettive insolite e segrete che fanno vedere quello che non si dovrebbe vedere, per esempio scoperchiando i tetti o utilizzando le lenti. Un esercizio che non è solo dei letterati, ma anche dei disegnatori, che cita Nigro, o di alcuni registi autori di grandi film, come quello di cui adesso vi propongo qualche battuta. Siamo diventati una razza di guardoni. La gente farebbe meglio a guardare un po' dentro casa propria, tanto per cambiare. Perché un uomo dovrebbe uscire da casa sua 3 volte in una notte sotto il temporale, con la valigia in mano, e rientrare poco dopo? Jeff, io voglio essere sincera con te. Tu cominci a spaventarmi. Ma farlo come lo fai tu, con il binocolo, formulando delle opinioni assurde su tutto quello che vedi, è addirittura morboso. Questi erano James Stewart e Grace Kelly in La finestra sul cortile di Hitchcock, e da questo brano partiamo per sentire l'autore. Buonasera a Salvatore Silvano Nigro. Tanto a voi, grazie. Salvatore Nigro, ha ascoltato allora questa citazione da un film celeberrimo, La finestra sul cortile? Abbiamo sentito anche James Stewart e Grace Kelly. Mi pare che i due attori introducano molto bene quelli che sono i contenuti del suo libro. Sì, fra l'altro c'è una pagina del mio libro che è dedicata proprio a quel film, ed è molto importante perché c'è una battuta che io riproduco nel mio libro, in cui c'è l'infermiera che dice al protagonista: ma guardare attraverso il binocolo è come guardare attraverso la serratura di una porta. Cioè, in effetti gli occhiali, dentro il mio libro, gli occhiali che poi possono essere il binocolo, possono essere anche i cannocchiali, possono essere le lenti di ingrandimento, sono degli strumenti legati, io dico, al diavolo, per il semplice fatto che sono un patto con il racconto. Il racconto che cos'è? Il racconto o il romanzo o la letteratura in genere va a scoprire tutto ciò che è coperto. Cioè, in fondo il diavolo nella tradizione è il diavolo zoppo che leva i coperchi alle pentole, ma anche alle case, che strappa le facciate e quindi permette di entrare laddove non sarebbe opportuno entrare o non è permesso entrare. Ecco, il mio libro è alla base questo concetto, cioè gli occhiali del diavolo sono un patto con il racconto, raccontano quello che non si vede. Infatti il diavolo ha un ruolo importante nel suo libro. Le lenti, lei scrive, più che avvicinare e semplificare possono separare e complicare, però a un certo punto scrive anche: non ha bisogno il diavolo del rinforzo degli occhiali, è lui stesso potenza ottica. Insomma, il diavolo e gli occhiali, una tradizione molto forte. Beh, gli occhiali, come dico nel mio libro, possono aiutare a vedere, ma possono servire anche a non vedere. Ecco, per esempio, nel romanzo Todomodo di Leonardo Sciascia, come nel film di Einstein, quello dedicato al Potemkin, gli occhiali del medico servono per non vedere quello che tutti gli altri vedono. Però tutto questo, ancora una volta, è un modo per raccontare ciò che dentro la realtà non si vuole assolutamente vedere. Cioè, anche quando non si vede bene attraverso gli occhiali, si finisce per vedere meglio. C'è un altro racconto di una scrittrice americana in cui, attraverso gli occhi di una ragazzina che spia i vicini attraverso il binocolo, questa ragazzina è convinta di vedere un menage fra un signore anziano e una signora anziana. In effetti i due non sono marito e moglie, ma uno è la madre e l'altro il figlio, ma tutte e due, nella realtà, come lei aveva capito, stanno recitando un matrimonio che non esiste. Cioè, anche quando gli occhiali inventano, finiscono per inventare bene. E quando invece ci aiutano a vedere la realtà, questa realtà può essere rifiutata, come nel caso della ragazzina di Anna Maria Ortese. Sì, esatto. tutto quanto. A un certo punto questo racconto stupendo dell'ortese fa capire come a volte è meglio non guardarla la realtà, perché quando la ragazzina mette gli occhiali finalmente può vedere il quartiere dove abita questo, la povertà di questo, la povertà aggressiva di questo quartiere, preferisce non portare gli occhiali. E infatti lei scrive che gli occhiali non sono innocenti. Non sono mai innocenti, sia quando fanno vedere bene, sia quando fanno vedere male, sia quando fanno vedere troppo, o anche quando non fanno vedere. Il romanzo forse più significativo che lei cita da questo punto di vista, in questa tradizione letteraria di guardare il mondo scoperchiando nei tetti, per così dire, è forse quello di Vélez de Guevara, Il diavolo zoppo. Ecco, che cosa rappresenta questa figura nell'immaginario della letteratura occidentale? Quello è un romanzo importantissimo, quello di Vélez de Guevara, ma la cosa è strana, perché tutti, quando si parla del diavolo zoppo, non pensano al romanzo spagnolo del 600, che è quello di Vélez, ma pensano piuttosto a Message, cioè l'altro diavolo zoppo, quello francese. In effetti l'inventore letterario del diavolo zoppo è questo autore barocco del 600 spagnolo. Ora, che cosa rappresenta? Rappresenta un'avventura che è l'avventura di chi si diverte a guardare, cioè a fare anatomia dello sguardo. Cioè, che cos'è l'anatomia dello sguardo? C'è una vecchia tradizione, che è quella di Democrito, il quale per scoprire quello che si nasconde nella realtà si divertiva a fare anatomia di animali. In fondo l'anatomia si può fare attraverso questo stile, e nel mio libro c'è un gioco di parole tra stilo, che è appunto il coltello, e lo stile, che è appunto, ora anche lo stile è un'arma che fa saltare i coperchi delle case, fa saltare le coperture e svela quello che neppure le persone che dentro stanno recitando sono consapevoli appunto di fare. Cioè, anatomia della realtà significa vedere dall'interno le cose, che è un motivo poi che si ritrova in Quevedo e che è alla base di tutto il barocco europeo, cioè guardare le cose dal di dentro. Nel capitolo sulla seduzione cinese lei definisce il cannocchiale come il prolungamento dello sguardo enormemente potenziato. Ecco, oggi che siamo in un mondo di realtà aumentata, come si chiama, di realtà virtuale, che impatto potrà avere sulla letteratura queste nuove tecnologie? Lei sa benissimo che soprattutto i giovani rispetto a noi, almeno rispetto a me che sono più anziano, hanno una cosa che per esempio dentro il mondo scolastico non si capisce. Il mondo scolastico odierno è fondato ancora su un principio molto antiquato e molto vecchio, che è quello fondato sulla scrittura, cioè si studia quello che viene scritto, che è stato scritto, e non si capisce che adesso i nostri giovani hanno soprattutto una cultura non legata alla scrittura ma al visivo. Cioè la cultura dei giovani visiva, per esempio i giovani sono capaci di leggere benissimo un fumetto, sono capaci benissimo di apprezzare un'opera d'arte figurativa, sono bravissimi a entrare nei particolari visivi di qualunque opera d'arte. Allora io credo che la nuova generazione abbia incorporato il diavolo, cioè la nuova generazione è implicitamente diabolica, nel senso che è fondata su una cultura puramente visiva. Bisogna dirlo alla ministra Giannini allora. La ministra Giannina, guardi, purtroppo non ho molta fiducia nei politici che si occupano delle cose scolastiche. Nell'arco di pochi anni abbiamo avuto 1000 riforme, una peggio dell'altra, sul modello americano, e io sostengo che hanno preso il modello americano e l'hanno tradotto in dialetto napoletano, con tutto il rispetto per il dialetto napoletano. Restiamo su questo tema dell'incursione nella realtà, nel mondo attuale. A un certo punto lei ricorda la figura di Don Firmin, che è il protagonista di un romanzo spagnolo, La Presidentessa, è un prete che mette insieme le osservazioni dal campanile con il cannocchiale e le confessioni per tracciare, lei scrive, il piano spirituale della sua città. Oggi in fondo gli algoritmi di Google tentano di fare la stessa cosa. Eh sì, ma solo che io la metto su un piano un po' più allegro, quindi su un piano letterario, di allegria letteraria, perché in fondo la finestra di cui è padrone il personaggio Don Fermin, oppure il cannocchiale attraverso cui lui controlla un villaggio spagnolo, e poi le metto queste cose, le metto accanto a un altro personaggio inventato da Brancati, il quale viene punito per la stessa mania, perché a furia di guardare vede cose che lo terrorizzano, vede un plotoncino di ragazzini che si masturba, la metto, dico, a volte forse bisognerebbe evitare di vedere troppo. Ecco, veniamo a un altro autore italiano, Giovanni Arpino, che lei cita, ricordando cosa diceva Arpino del Giornale, che definiva uno strepitoso cannocchiale puntato quotidianamente sul mondo. Quindi anche il giornale è uno strumento del diavolo? Non solo il giornale è uno strumento del diavolo, ma la cosa che è molto bella di quel romanzo è che quel cannocchiale si può distendere, nel senso che il giornale diventa una pagina di cronaca nera, dentro la quale i due protagonisti del romanzo di Arpino fanno delle escursioni, cioè che viaggiano lì, ed è un viaggio alla Bosio, cioè l'inferno contadino portato nella vettura da Bosio, qui diventa un inferno urbano, ed è molto significativo il fatto che il protagonista ha lo stesso nome di un grande studioso barocco piemontese che si è occupato proprio delle questioni del rapporto tra virtù e politica. Qui la politica non ha nessuna virtù, le città sono, cioè quello che loro vedono attraverso la cronaca, ecco, il mondo visto attraverso la cronaca nera è un disastro, ed è un disastro dove il diavolo domina appunto in assoluto. Veniamo a una figura che non c'è nel suo libro, mi ha colpito l'assenza di Spinoza, che era lui stesso uno che faceva lenti, lo cita soltanto a un certo punto in una citazione di Sciascia. Che cosa ci può dire Spinoza? Un muratore di lenti. È vero che non c'è nel mio libro, ma è anche vero che il risvolto del mio libro, io non ho voluto che ci fosse un risvolto del mio libro, nel senso che non ho voluto scrivere io, né ho voluto che lo scrivesse qualcun altro, no? Ho messo una pagina bellissima di Leonardo Sciascia su Spinoza, che lui vede in maniera fantastica mentre sta molando queste lenti. Ora è chiaro che la filosofia, anche la filosofia spinoziana, ma non soltanto. Per esempio ci sono altri filosofi che io cito nel mio libro, e sono tutti filosofi che hanno a che fare proprio con gli occhiali, con la lavorazione degli occhiali. Cioè, in fondo, che cos'è la filosofia? È anch'essa, come la letteratura, un modo per penetrare laddove forse con altri strumenti non si può penetrare. Questi strumenti possono essere tecnici, ma possono essere anche fantastici, e la filosofia, come la letteratura, appartiene all'immaginario. Grazie a Salvatore Silvano Nigro, autore di Il portinaio del diavolo. Buona serata. Grazie, arrivederci. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Vi propongo adesso un romanzo sorprendente di un autore ancora poco noto in Italia, Wendell Berry, che è una singolare figura di scrittore, poeta, agricoltore, attivista e pacifista cristiano, fautore della civiltà e delle comunità agricole degli Stati Uniti. Un autore che tra l'altro ha compiuto proprio pochi giorni fa 80 anni. E quest'anno viene pubblicato in Italia il suo primo romanzo tradotto nella nostra lingua, che si intitola Jaber Crow, storia della vita di Jaber Crow, barbiere, membro della comunità di Port William, scritta da lui medesimo. Il libro è pubblicato da Lindau, 514 pagine, 24 euro, ed è tradotto da Vincenzo Perna. Siamo nel Kentucky, che è lo stato d'origine dove vive ancora l'autore, è lo stato nel quale trascorre la sua vita un barbiere apparentemente insignificante, ma la cui vita diventa il microcosmo di una civiltà e di una cultura. Il protagonista, Jaber Crow, il barbiere, è solo, non è sposato, se non nella sua mente, un matrimonio virtuale con un unico grande amore, una ragazza alla quale non si è mai dichiarato. E al lavoro di barbiere il protagonista associa quello di sagrestano nella chiesa e di becchino al cimitero. Insomma, una vita che non ha nulla di memorabile, eppure le riflessioni del protagonista ci fanno capire bene l'America profonda e le sue trasformazioni nell'arco di 60-70 anni. L'evocazione di tante figure scomparse richiama una sorta di Spoon River in prosa, ma qui il clima è assai meno desolato e la fede dell'autore, oltre che alle letture nelle quali volentieri si immerge, lo aiutano a capire e ad accettare il mondo. Ed è singolare l'epigrafe, quasi un avvertimento, con il quale l'autore apre il libro. Avviso, ve lo leggo integralmente, chiunque tenti di trovare un testo, tra virgolette, in questo libro sarà perseguito, chiunque tenti di trovarvi un sottotesto, tra virgolette, sarà bandito, chiunque tenti di spiegarlo, interpretarlo, districarlo, analizzarlo, decostruirlo o capirlo, tra virgolette, in qualche altra maniera, sarà mandato in esilio su un'isola deserta in compagnia degli altri interpretatori suoi simili. Insomma, il libro, dice l'autore, va letto per quello che è, immergendosi nel flusso della narrazione che, come il fiume che fa da protagonista muto ma sempre presente, è capace di una corrente placida ma anche di picchi drammatici come quelli delle piene che egli descrive. E nel fiume, anzi sulle sponde del fiume, Crowe si rifugierà negli ultimi anni dopo aver dovuto abbandonare ufficialmente il suo mestiere di parrucchiere, di barbiere anzi, perché perseguitato dalle incombenze burocratiche e sanitarie che lo ridurranno a fare il barbiere di contrabbando, come dice lui stesso, per affermare il proprio spirito di libertà e di indipendenza, quello spirito che gli consente delle riflessioni come queste che adesso vi propongo sul tema della forza dell'amore. Perché l'amore non fiorisce? Invece l'odio fiorisce. All'odio il mondo non lesina opportunità e mezzi, e l'odio trova sempre giustificazioni e si realizza perfettamente nel tempo attraverso la distruzione delle cose del tempo. Ecco perché la guerra è completa e non risparmia nulla, non esita di fronte a nulla, giustifica se stessa con ciò che vi è di più sacro e persegue la vittoria con i mezzi più empi. L'inferno stesso, la guerra che è sempre tra noi, è una creatura del tempo, di un tempo infinito, priva del sollievo di ogni luce o speranza. Ma prima o poi l'amore ci allontana dal tempo, perché non accetta questo limite. Di tutto ciò che sentiamo e facciamo, di tutte le virtù e i vizi, solo l'amore ci spinge oltre il limite del mondo, perché l'amore è molto di più che qualcosa di un po' strambo. Non si spiega e neppure si giustifica, anzi è lui stesso a giustificare. Non è una nostra creazione. Se non ci tocca, non siamo capaci di immaginarlo. Contiene il mondo e il tempo, così come una donna incinta contiene il bambino di cui patirà e perdonerà i torti. È dentro il mondo, ma è non completamente del mondo. Proviene dall'eternità, ci conduce laggiù, tanto quanto ci tiene qua. Un modello dell'indipendenza americana che si esprime nel culto per la natura è naturalmente Henry David Thoreau, di cui viene pubblicato adesso Le tentazioni del paradiso, curato da Stefano Paolucci per Piano B, 120 pagine, 12 euro. Abbiamo qui un lungo articolo del 1843, quando Thoreau si trasferisce a New York, dove riesce a pubblicare soltanto questo articolo assieme a un altro. Qui l'autore recensisce il libro di uno studioso tedesco, un emigrante che aveva fatto, per così dire, fortuna negli Stati Uniti, sul socialismo utopista di Fourier, e lo fa dopo alcune riserve del direttore, che sostanzialmente condivideva lo spirito di quel socialismo utopistico. Lo fa dunque Thoreau proprio su una rivista che era espressione negli Stati Uniti di quella cultura. Thoreau era scettico sul riformismo che cala dall'alto. Come osserva infatti il curatore, Fourier e i suoi seguaci, tra cui lo stesso Hetzler, cioè l'autore del libro recensito da Thoreau, sostenevano che l'umanità poteva essere migliorata nel suo complesso solo mediante cambiamenti operati in ambito economico e sociale, riformando cioè le condizioni materiali dell'uomo. Hetzler, che era l'autore del libro, pensava insomma che bastasse diffondere le tecnologie e riorganizzare la società per riconquistare il paradiso, così scriveva. Ma Thoreau è scettico, come provano queste righe che certamente piacerebbero al barbiere Jebel Crowe e al suo autore. Ahimè, è questo il vero peccato del secolo, questa mancanza di fede nella prevalenza di un uomo. Niente può essere compiuto se non da un singolo uomo. Chi ha bisogno d'aiuto, ha bisogno di tutto. Certo, questa è la condizione della nostra debolezza, ma non potrà mai essere il mezzo per riacquistare la nostra salute. Per poter godere insieme dei nostri successi, dobbiamo prima riuscire da soli. Siamo convinti che i movimenti di riforma sociale a cui assistiamo indichino un'aspirazione che non può essere soddisfatta così a buon mercato come si crede. E per quanto riguarda questo voler riformare il mondo, abbiamo poca fiducia nelle corporazioni. Non è così che all'inizio esso fu formato. Un autore al quale Barry viene spesso accostato negli Stati Uniti per il gusto e la capacità di rappresentare l'America rurale degli anni 30 e 40 è William Faulkner, del quale è uscita una serie di 11 racconti che sono pubblicati da Adelphi, intitolati dal secondo racconto Foglie Rosse, 254 pagine, 20 euro, ed è curato da Mario Materassi. Sono novelle scelte tra il centinaio circa del corpus del grande scrittore, certamente più noto per i suoi romanzi, e seguirà a questo un secondo volume. E ce n'è uno doppiamente significativo, uno per essere ambientato in un secco settembre e l'altra ragione per avere come protagonista un barbiere, appunto, che è al centro di una cupa storia di intolleranza razziale che permea ogni strato della società. E adesso passiamo a un altro grande scrittore americano, Henry Miller, vissuto tra il 1891 e il 1980, di cui Adelphi pubblica un libro sui libri, che si intitola I libri nella mia vita, tradotto da Bruno Fonzi, 414 pagine, 24 euro. Questa è una sorta di autobiografia per libri sui quali Miller, nella prefazione, dice delle cose controcorrente. Per esempio, nelle prime righe scrive di essersi ormai persuaso che bisognerebbe leggere sempre di meno e non sempre di più. Anche i pochi americani che leggono tanti libri, scrive, leggono di gran lunga troppo. Sono davvero pochi, aggiunge, quelli che vivono con saggezza e pienamente. Il grosso della letteratura, dice Miller, in ogni campo è composto da idee di bassa divulgazione. La questione, ahimè, mai risolta, è fino a che punto sarebbe utile decurtare la sovrabbondante offerta di foraggio mediocre. Una cosa è certa, oggi gli letterati decisamente non sono i meno intelligenti tra noi. Perciò, conclude, non ho alcuna reverenza per i libri in se stessi, né pongo gli scrittori in una categoria speciale privilegiata. Sono come gli altri uomini, né meglio né peggio. E qui Miller ripercorre le letture che hanno segnato la sua formazione, a partire dalle prime fatte da bambino. Sono quelle fatte nell'infanzia delle letture importanti, scrive Miller, perché questo libro influenzarono tutto il mio essere, formarono il mio carattere, il mio modo di guardare l'esistenza, il mio atteggiamento verso la donna, verso la società, verso le leggi, la morale, lo Stato. Essi determinarono il ritmo della mia vita. E poi l'influsso dei libri col crescere dell'età si fa più labile, perché, aggiunge, la sostanza di una lettura adulta non può influenzare l'uomo nella sua interezza, il suo intero essere. Eppure ci sono dei libri che sono stati dominanti nella vita di Miller ed egli ce ne enumera 100 nell'appendice. Nel libro di Henry Miller un capitolo è dedicato alle letture in gabinetto, una pratica che l'autore sconsiglia fermamente con dovizia di raccomandazioni. E proprio a questo luogo segreto è dedicato l'ultimo libro di un grande scrittore tedesco, Peter Handke, Saggio sul luogo tranquillo, pubblicato da Guanda, 108 pagine, 13 euro, tradotto da Alessandra Iadicicco. Non è un libro di cui si sentiva un bisogno spasmodico, comunque troviamo qui riflessioni mai volgari, peraltro, sull'importanza di questo luogo per l'autore e la sua serenità, che proprio in questo luogo, nel luogo tranquillo, come lo chiama Handke, trova la propria capacità di ascoltare. E la scoperta dell'importanza di questo luogo avviene nella toilette del giardino di un antico tempio giapponese, dove, per così dire, avviene la rivelazione. Da allora, scrive l'autore, il luogo tranquillo mi accompagna al di là della cosa in sé, del posto come idea. In altre parole, da allora esso è un soggetto. Ho un problema attraente, nel suo primo significato, un promontorio, qualcosa a cui girare intorno, qualcosa da circumnavigare, in questo caso la nave, il battello, la barca che dir si voglia, il linguaggio, la lingua di un narrare che perlustra e che delinea. E a questo punto... Il confettino. Vi segnalo un autore americano, per restare in carattere, Rob Baea, che è un insegnante di biologia e allenatore di wrestling, e che ha pubblicato Il maestro nuovo è tornato con Rizzoli, 414 pagine, 14 euro, tradotto da Beatrice Masini. Questo è il seguito di un libro che ha avuto un grande successo presso i lettori più grandicelli, e si parla di 7 bambini ai quali il protagonista, Mr. Terrapt, darà una mano per diventare grandi. Ultimi arrivi. Vi segnalo innanzitutto l'ultimo titolo di Andrea Camilleri, che si intitola Donne, 17,50 euro, 216 pagine, pubblicato da Rizzoli. Come dice l'autore, questo libro è un parziale catalogo delle donne realmente esistite nella storia, create dalla letteratura e di altre che ho conosciuto e di altre ancora di cui mi hanno raccontato, le quali sono rimaste nella mia memoria. E troviamo qua un lungo elenco di eroine letterarie protagoniste della vita di Camilleri, che ci conferma la verve letteraria dell'anziano scrittore. Poi vi segnalo il libro di un'autrice che è una psicoanalista, che si misura per la prima volta con la narrativa, Loredana Micati. Ha scritto Don Riccardo, è pubblicato da Mursia, 294 pagine, 16 euro. Anche qua siamo in Sicilia nel 1870, dove divampa la passione tra un giovane di origine inglese, pare, e una ragazza di Roccatagliata, un amore che farà incrociare due destini e due fantasie. Poi vi segnalo un libro collettivo di Niccolò Ammaniti, Diego De Silva, Paolo Giordano, Antonio Pascale, Francesco Piccolo, Cristian Raimo, Elena Stancanelli ed Emanuele Trevi, Figuracce, curato dal primo autore, da Ammaniti, e pubblicato da Einaudi, 264 pagine, 17,50 euro, nel quale gli autori ricordano e raccontano le peggiori figuracce delle rispettive carriere. E infine vi segnalo un thriller alla Stephen King, nel libro di John Searle, Non rispondere, pubblicato da Newton Compton, 332 pagine, 9,90 euro, tradotto da Anna Leoncino e Francesca Noto. E con questo ringrazio Guido Scotti in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.